24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Van Rompuy propone un ministero del Tesoro europeo. Secondo il Presidente del Consiglio europeo, il nuovo dicastero potrebbe avere un bilancio centrale e il coordinamento delle emissioni di debito. Per il Presidente del Parlamento, Martin Schulz, il successo europeista in Olanda è un grande risultato. Fine settimana positivo per le borse, molto bene Madrid e Milano. L'Eurogruppo riunito a Cipro, si parla dei conti della Spagna, ma Rajoy non vuole l'aiuto europeo. Benvenuti a questa edizione di 24 ore in Europa da Paolo Panceri. Un ministero del Tesoro europeo con un bilancio centrale, il coordinamento delle emissioni di debito, il completamento dell'unione bancaria con gli schemi di garanzie per i depositi e di liquidazione per le banche, un rafforzamento delle politiche economiche comuni per migliorare la competitività, una maggiore cooperazione tra Europarlamento e Parlamenti nazionali, nuove strutture democratiche per l'Eurozona. Questi temi rilanciati dal Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy e sottoposti ai governi dei 27 e al Parlamento europeo in vista della preparazione del rapporto dei quattro presidenti, lo stesso Van Rompuy, oltre a Barroso, Draghi e Juncker, su cui si aprono le consultazioni la prossima settimana. La delegazione italiana, guidata dal ministro agli affari europei Enzo Moavero, sarà tra le prime a essere consultate lunedì. Un grande risultato per l'Europa, così il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz ha commentato l'esito delle elezioni svoltesi mercoledì in Olanda. Le tradizionali voci della ragione pro-europeista, ha osservato l'esponente socialista tedesco, hanno ricevuto un sostegno positivo, mentre i più isolati partiti anti-Unione non hanno raccolto il consenso degli olandesi. Il risultato del voto, sottolinea Schulz, è un segno di fiducia nell'Europa e dimostra che l'approccio costruttivo dei principali partiti pro-Unione è la strada giusta da seguire. Il differenziale tra i BTP e i Bund a 10 anni è sceso a 329 punti. Il rendimento si posiziona sotto il 5,492% ai minimi da fine marzo. La settimana sulle piazze finanziarie europee si è chiusa in positivo dopo le dichiarazioni della Federal Reserve sul piano di iniezione di liquidità. Le migliori sono state Madrid, più 2,75%, Milano, più 2,34%, Parigi più 2,27%. Le borse europee hanno festeggiato l'intervento della Federal Reserve a sostegno dell'economia statunitense, chiudendo la settimana in deciso rialzo. Milano è stata una delle piazze migliori, il FTSE All-Share è salito del 2,43% e il FTSE MIB del 2,34%. La mossa della Fed ha premiato i settori più ciclici, a partire da auto, costruzioni e materie prime. Tra le blue chip di Piazza Affari, Mediaset più 6,15%. Ha approfittato del giudizio positivo degli analisti di Barclays. Bene anche CT Microelectronics più 6,1%, che ha annunciato per dicembre il nuovo piano industriale, e i titoli delle banche premiate dalla discesa dello spread tra i rendimenti dei decennali italiani e tedeschi. Prima della classe la Popolare dell'Emilia Romagna più 3,69%, seguita da UBI Banca più 2,71% e Popolare di Milano più 2,18%. Paolo Parone da Red Corp per Radio 24, lo Sole 24 Ore. Se in Eurozona i governi continuano a seguire la strada presa, possiamo essere ottimisti, lo ha detto il presidente della BCE, Mario Draghi. L'Eurogruppo è riunito a Cipro. Sentiamo Beda Romano. L'Eurogruppo si è riunito questa mattina a Nicosia, perché Cipro ha la presidenza dell'Unione in questo secondo semestre del 2012. Si è parlato molto di Spagna, la Spagna continua ad essere d'attualità, perché i conti pubblici vanno male, l'economia è in rallentamento e c'è il forte timore che a un certo punto il paese possa chiedere il sostegno europeo. Per ora il governo Rajoy si è rifiutato di farlo, teme un boomerang di impopolarità politica e quindi finora ha deciso di aspettare. C'è all'interno dell'Eurogruppo un dibattito su questo fronte. Alcuni paesi pensano che sia il momento di chiedere l'aiuto europeo, perché i tassi di interesse sono scesi grazie anche alla comunicazione della Banca Centrale Europea, e quindi bisognerebbe in questo contesto approfittarne. Altri paesi, tra cui la Germania, frenano. La Germania frena in particolare perché sa perfettamente che il sostegno europeo alla Spagna prevederebbe un protocollo d'intesa che dovrebbe essere approvato dal Bundestag, e a 12 mesi dalle elezioni il cancelliere Angela Merkel non vuole ripresentarsi davanti al Bundestag chiedendo denaro. Siamo qui per dire tutto quello che fa l'Europa, quali sono le opportunità anche dal punto di vista finanziario che può offrire l'Unione Europea e la Banca Europea degli investimenti. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione Europea responsabile per l'industria e l'editoria, prima di prendere parte a Bari al tavolo istituzionale sull'ILVA con governo, regione ed enti territoriali. Nel mondo queste azioni irresponsabili, adolescenziali, puerili non portano a nessun bene, ma cercano di tenere l'attenzione lontano dai veri problemi, come la Siria o la questione palestinese e la mancanza di stabilità e pace in Medio Oriente. Lo ha dichiarato il presidente egiziano Mohamed Morsi nel corso della sua tappa romana del viaggio in Europa, riferendosi implicitamente al film anti-Islam che sta sollevando un'ondata di proteste nel suo paese e in altre nazioni arabe. A macchia d'olio. Le proteste anti-americane, ufficialmente scaturite dal film Blasfemo contro Maometto, si sono estese ieri lungo la dorsale che dal Nord Africa arriva al Medio Oriente, con gli episodi più gravi in Egitto e in Yemen. Gli Stati Uniti optano intanto per una linea che abbraccia la minaccia militare, con l'invio di due navi da guerra verso le coste libiche e soprattutto la ferma condanna di attacchi così irrispettosi della religione. Sul fronte della cronaca, l'assalto più drammatico si è registrato ieri nella capitale yemenita Sanaa, dove è di 4 morti il bilancio degli scontri tra polizia e dimostranti nel corso di un secondo tentativo di attacco contro la rappresentanza diplomatica statunitense. Un'altra situazione potenzialmente esplosiva nella capitale egiziana del Cairo, dove oltre 200 persone sono rimaste ferite ieri nel corso delle proteste intorno all'ambasciata americana. Per oggi i gruppi islamisti hanno annunciato la Marcia del Milione, un'imponente manifestazione anti-statunitense nei luoghi che furono solo un anno e mezzo fa simbolo della primavera araba. Altre manifestazioni di protesta si sono svolte in Bangladesh, Iraq, Marocco, Sudan e Tunisia. E mentre le autorità libiche annunciano arresti e progressi nelle indagini sull'assalto costato la vita a Bengasi all'ambasciatore americano Christopher Stevens, il presidente americano Barack Obama promette: nessun atto di terrore resterà impunito, la violenza non scalfirà la determinazione degli americani, proteggere il nostro personale all'estero è la mia priorità. This video is disgusting. Dura infine la presa di posizione del segretario di Stato americano Hillary Clinton, che ha condannato il film anti-Islam all'origine delle proteste. La Clinton lo ha definito disgustoso e riprovevole. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24. È Roma ad aggiudicarsi il primato europeo delle scorte. Ogni giorno sono 120 le pattuglie che la Polizia di Stato organizza per altrettante personalità italiane, impiegando anche più di 1000 uomini. A Madrid sono 60, a Parigi e Londra una quarantina, a Berlino soltanto 13. Interessante la stima del SILP CGL, che ha calcolato quante auto sono invece impiegate per la sicurezza della capitale. La conclusione è amara, spesso sono in numero inferiore a quelle impiegate per le scorte. È Roma ad aggiudicarsi il primato europeo delle scorte. Ogni giorno sono 120 le pattuglie che la Polizia di Stato organizza per altrettante personalità italiane, impiegando anche più di 1000 uomini. Il dato emerge da uno studio del SILP CGL, il sindacato della polizia. Guardando alle capitali europee, a Madrid le scorte sono 60, a Parigi e Londra una quarantina, a Berlino soltanto 13. Dunque, a Roma sono mediamente il triplo. Interessante ancora un'altra stima del sindacato, che ha calcolato quante auto sono invece impiegate per la sicurezza della capitale italiana. La conclusione è amara. Spesso sono in numero inferiore a quelle impiegate per le scorte. Facendo due conti, poi si scopre che una scorta di primo livello ci costa quasi 100.000 euro l'anno. Il vero nervo scoperto, tuttavia, sono le scorte di tutela, che prevedono un solo agente ed un autista. Sono taxi di Stato e poco servono alla sicurezza, ha commentato il segretario generale Gianni Ciotti del SILP CGL. Luisa Perona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Etichette di origine pronte in metatempo, è questo l'obiettivo del nuovo regolamento sui marchi di qualità dei prodotti agricoli approvato ieri dal Parlamento europeo. Con questa normativa il tempo necessario per ottenere un marchio DOP, IGP e STG dovrebbe dimezzarsi, mentre viene introdotta un'etichetta ad hoc per i prodotti di montagna. Un successo importantissimo per il Made in Italy alimentare, è il commento del PD Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo. Ed è tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Un saluto da Pietro Corte, Energia Tecnica, e da Paolo Panceni Studio. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.